parliamo di lavoratrici di cooperativa sociale, più di un centinaio di lavoratrici in appalto che lavorano sui nidi in appalto dell'Unione Reno Galliera. Il problema deriva dal fatto che quest'estate è uscito un bando di gara che non comprendeva alcune clausole migliorative pattuite ormai 6 anni fa in un accordo fra la CGIL e l'Unione Reno Galliera. Per 6 anni le lavoratrici hanno ricevuto un premio di produzione, un incentivo di alcune centinaia di euro che nell'ultimo appalto è scomparso. Abbiamo fatto il tentativo con le buone di provare a fare una trattativa per ricomporre la situazione, ma l'Unione fondamentalmente non ci ha prospettato una soluzione accettabile. Voi chiedevate che avessero anche un monte ore, diciamo, di back office per poter, esatto, integrare il loro salario. Nell'accordo di 6 anni fa c'era anche questa clausola migliorativa che portava da 135 a 155 ore l'anno il monte ore non frontale, che serve alle educatrici, alle collaboratrici, per preparare tutte le attività che poi vengono fatte con i bambini, i collettivi, con i genitori, quindi attività estremamente utili a dare qualità al servizio. Anche questo monte ore è scomparso nella gara d'appalto. Noi l'abbiamo scoperto leggendo il testo quando è stato pubblicato. Poi c'è stata l'estate, abbiamo fatto alcune assemblee con le lavoratrici, abbiamo tentato di recuperare la situazione in trattativa, ma l'Unione non ha trovato le risorse per rimettere al suo posto quell'incentivo che, quando è stato concordato, serviva proprio a diminuire un po' il differenziale stipendiale tra il personale pubblico e il personale in appalto delle cooperative. E l'accordo non è mai stato disdettato, semplicemente non è stato inserito nell'appalto. Quindi c'è anche un altro problema, carattere politico ma anche giuridico. C'è un accordo che dice: diminuirò economicamente la differenza tra i dipendenti in appalto e i dipendenti diretti, non è stato disdettato dall'Unione, ma semplicemente non è stato rispettato all'atto della redazione dell'appalto, del bando di gara.